l'appuntamento è stato lanciato mesi or sono, insomma, parliamo prima dell'estate, tra giugno e luglio avevamo lanciato insieme alle realtà solidali con la Palestina di Udine e dintorni, appunto, un appello a partecipare il giorno della partita a una mobilitazione per chiedere appunto il boicottaggio di quella partita e fondamentalmente l'esclusione di Israele, dei propri club nazionali e anche, diciamo, dei club locali da ogni competizione sportiva che fosse stata internazionale, continentale, insomma, quindi da FIFA e UEFA. Ad oggi oltre 350 tra associazioni, partiti politici, realtà politiche nazionali, locali, insomma, e polisportive di sport popolare, tifoserie del calcio organizzato hanno risposto all'appello. Ci aspettiamo sicuramente un grosso afflusso di persone in quel di Udine, si prospetta probabilmente, diciamo, a memoria la più grossa partecipazione popolare a un corteo che si svolge appunto nel capoluogo friulano. Sono attese circa 10.000 persone. Lo stesso CT dell'Italia Gattuso ha ammesso, diciamo, anche con un po' di dispiacere, che con ogni probabilità ci sarà più gente in strada a manifestare contro Israele che tifosi all'interno dello stadio a sostenere la nazionale italiana e purtroppo anche quella israeliana. 5.000 biglietti venduti, ma in realtà molti dei quali, diciamo noi, svenduti, perché la FIGC, insomma, ha messo in campo tutta una serie di accorgimenti per provare a riempire a tutti i costi lo stadio, ha fatto delle offerte promozionali per gli abbonati e le abbonate dell'Udinese, ha venduto, o meglio regalato, biglietti, diciamo, alle varie scuole, ai bambini e alle bambine, alle scuole calcio, quindi insomma si sta cercando in tutti i modi di far sì che quello stadio non sia vuoto. La nostra sfida, senza nulla togliere a chi vuole andare a vedere la partita, è cercare di portare quanta più gente possibile per le strade di Udine, proprio per dimostrare che il mondo del calcio, ma in generale poi la società civile italiana, è contro quella partita, è contro il genocidio in Palestina e soprattutto sostiene la pace e la libertà per il popolo palestinese. Quindi, diciamo, il clima è molto positivo. Tra l'altro è una manifestazione che gioco forza si inserisce in un contesto nazionale di mobilitazione. Dal 22 settembre, con lo sciopero generale chiamato dall'Unione Sindacale di Base, in poi è stato un crescendo, insomma, quindi milioni di persone, come non si vedeva da tempo, anche in Italia, a protestare. Ci teniamo a dire che, come nel caso della partita, diciamo, Italia-Israele, non si protesta semplicemente contro la presenza di Israele in quanto nazionale che rappresenta uno stato genocida, ma si rappresenta anche contro le nostre istituzioni sportive e politiche che permettono che questa partita abbia luogo. Così, nello stesso tempo, diciamo, le mobilitazioni di questi giorni erano mobilitazioni contro il genocidio e per la Palestina, ma erano chiaramente anche mobilitazioni contro il governo Meloni e le istituzioni politiche nazionali che stanno sostenendo e continuano a sostenere Israele e il genocidio. Quindi all'interno di questo clima sociale e politico che si va a inserire anche quella che è la mobilitazione del 14 ottobre a Udine. Come valutate l'atteggiamento, ma anche la discussione che si è aperta nelle istituzioni calcistiche, penso alla UEFA, alla FIFA, penso alla Federazione Italiana Gioco Calcio? Quello, diciamo, noi diciamo spesso che il calcio in quanto fenomeno sociale di massa è un riflesso, è un fedele riflesso della società, e noi notiamo che anche all'interno del mondo del calcio c'è lo stesso meccanismo, cioè di totale scollamento tra quelle che sono le istituzioni che governano il mondo del calcio e quella che è la base, che poi è il cuore pulsante del mondo del calcio, cioè i tifosi e le tifose, ma anche bisogna ammettere alcuni, come dire, addetti ai lavori, quindi alcuni lavoratori e lavoratrici del settore. Mi riferisco ad esempio agli allenatori dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che quest'estate avevano mandato ufficialmente una richiesta alla FIGC per valutare, appunto, di fare pressione su FIFA e UEFA affinché quella partita, in generale Israele, fosse esclusa dalle competizioni. Quindi, diciamo, se dal basso notiamo, così come nelle piazze, anche negli stadi, anche tra i tifosi e le tifose, il senso che va per la maggiore è quello di esclusione di Israele. Ultimamente era stato pubblicato, mi pare, il 1 ottobre, insomma, quindi qualche giorno fa, anche un sondaggio che era uscito su un giornale, diciamo, mainstream italiano, e i numeri erano impietosi. Insomma, si chiedeva se gli italiani fossero d'accordo o meno con l'esclusione di Israele, quindi non giocare quella partita. Mi sembra che tra il 70 e l'80% di chi aveva risposto a quel sondaggio era favorevole all'esclusione. Te ne dico un altro: c'è stato un altro media nazionale molto molto importante che aveva lanciato lo stesso identico sondaggio. A un certo punto quel sondaggio è totalmente sparito dai canali internet di questo media, perché le cifre erano quasi bulgare. Si parlava di oltre il 90% dei votanti che era per l'esclusione di Israele. Questo dimostra come la base, come, diciamo, le persone che rendono possibile quello sport, siano con la Palestina, ma siano poi in generale, al di là di essere con la Palestina, sono a favore della giustizia, a favore del rispetto delle regole che lo stesso mondo del calcio e della comunità internazionale si è data, e quindi contro la presenza di Israele. Non si può dire lo stesso sia del governo Meloni e delle istituzioni politiche, così come di FIFA, UEFA e FIGC, perché né FIFA né UEFA né FIGC hanno avuto il coraggio, noi non diciamo neanche di escludere, ma di mettere al voto all'interno dei propri organismi, diciamo, la discussione che comunque vogliamo o non vogliamo, piaccia o meno, è quella che va per la maggiore, cioè chiedersi quantomeno se era lecito o meno escludere Israele. Addirittura Infantino l'altro giorno, in apertura del congresso della FIFA a Zurigo, ha avuto il becero coraggio di dire che il calcio non può risolvere situazioni geopolitiche, che il calcio deve unire e non dividere, quando ricordiamo tutti che nel febbraio 2022, appena 4 giorni dopo l'invasione e dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, la federazione calcistica russa è stata esclusa da tutte le competizioni.